Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Di un recente fatto di cronaca che riguarda un gruppo di nutrie residenti a Lambrate per dedicare la puntata di questa settimana in forma monografica a questi animali controversi che, dopo essere stati deportati dal Sud America per essere sfruttati per la loro carne e la loro pelliccia nel nostro paese, vengono adesso bollati come nocivi con funesti piani di eradicazione. Contro le nutrie e la loro possibilità di sopravvivere si accaniscono cacciatori, agricoltori e pubbliche amministrazioni, mentre i cittadini fluttuano tra due eccessi: coloro che portano i bambini a guardarle e che offrono loro carote e coloro che tentano di avvelenarle. Il servizio dedicato alle nutrie, quelle di Lambrate ma anche tutte le altre, è curato da Silvia Garatti, medica, dermatologa e psicoterapeuta attualmente in quiescenza, animalista. Ritenuto necessario inserire alcuni ritratti di singole nutrie e le loro storie e le loro voci, perché in una prospettiva antispecista ragionare in termini di singoli individui e non di masse o di specie è un esercizio fondamentale per prevenire ogni sorta di genocidio. Il genocidio, in fondo, lo ricordiamo, indica crimini violenti commessi contro determinati gruppi di individui con l'intento di distruggerli. A tale scopo abbiamo utilizzato un servizio che realizzammo nel 2017 presso il rifugio di Laura, un'attivista che recupera le nutrie in situazione di bisogno ed emergenza. La pagina Facebook del rifugio di Laura che vi consigliamo di visitare è Kendra Mio Castor. Abbiamo Ellie, Nemo e Amy. Nemo viene da Treviso, è stato recuperato in una fattoria didattica. La mamma è stata uccisa, vero Nemo? Sta giocando, facendo così è un invito a giocare, ma è un gioco. Oh, dimostrano proprio chiaramente quando non è apprezzato un qualcosa, appunto ringhiando, soffiando, si inarcano. Naturalmente giocano con la bocca come i cani, comunque anche i gatti, però non la usano, cioè non usano il morso. Mettersi in pancia in su comunque è anche un segno di estrema fiducia, come puoi ben vedere. Cioè è contentissima di vederti e di giocare con te. Esatto. Nemo? Nemo ha voglia di giocare. Sì. Nemo è un pagliaccio. Questo è un loro verso anche per richiamare. Anche le mamme chiamano i cuccioli così. È come voler dire: vieni qua. Voglio, posso, comando, uccido. Voglio, posso, comando, uccido. Voglio, posso, comando, uccido. Da quanto si apprende da dichiarazioni e comunicati stampa, a nulla sono valse proposte e proteste di cittadini e associazioni. Il Comune di Milano ha deciso, ormai più di un mese fa, di procedere alla cattura e all'uccisione delle nutrie del cimitero di Lambrate, accusate di sporcare vialetti e tombe, di mangiare fiori, di inquietare i frequentatori umani. Tra le proposte alternative avanzate, la sterilizzazione chirurgica, alla quale personalmente sono contraria nei selvatici, e la chiusura dei varchi del perimetro del cimitero, se proprio la loro presenza è così intollerabile. Invece no. Animali mansueti intrappolati e uccisi con il gas. Peraltro, da quanto si legge dal comunicato stampa di ENPA Milano, il progetto attuato sembrerebbe essere anche in contrasto con le disposizioni del piano di contenimento delle nutrie recentemente promulgato dalla città metropolitana, che vieta l'appalto del servizio a figure private. Ma se così è, qualche associazione con i propri uffici legali l'ha verificato o no? Intanto voglio, posso, comando, uccido, voglio, posso, comando, uccido, voglio, posso, comando, uccido. Ascoltiamo ora la dottoressa Cristina Marchetti, veterinaria patologa forense dell'Università di Parma, che ci accompagnerà nel mondo delle nutrie, così da capire chi sono le nutrie e così da sfatare false credenze. Si legge molto e si sente molto sulla nutria, ma spesso quelle che passano sono notizie scientificamente infondate che tendono a rappresentare la nutria come un nemico da combattere. La ricerca scientifica, al contrario, ci informa che questo animale non risulta essere vettore di alcuna malattia, così come dimostrato da anni di indagini condotte sia dagli istituti zooprofilattici sperimentali sia dal mondo accademico. La nutria non minaccia la biodiversità, in quanto non determina danni agli organismi vegetali, acquatici e terrestri di cui essa si ciba. La nutria è strettamente vegetariana, non si nutre di uova e non è di alcun disturbo alle altre specie animali. La nutria ha predatori, e come? Molly è una nutria disabile che è stata recuperata un anno e mezzo fa e abbiamo scoperto 4 fratture vertebrali, 3 alle vertebre toraciche e una lombare. Le schegge della frattura gli procuravano questa infezione continua, così si è deciso con i veterinari di fare un intervento di neurochirurgia di limatura della spina dorsale, intervento molto invasivo. Fortunatamente, dopo 5 ore di intervento, perché è stato un intervento molto complesso, si è risvegliata. Vabbè, ok, abbiamo fatto una terapia di antidolorifica per i primi giorni post-operatori abbastanza tosta, data la gravità dell'intervento. Dopodiché, un po' alla volta, Molly è guarita. Però il carattere un po' tremendino lei ce l'ha. C'è anche da dire che lei ha fatto 8 mesi di terapie e di medicazioni tutti i giorni. Ha sopportato, insomma, una cura molto molto impegnativa e anche invasiva. Adesso entrerà nell'acqua e lì... Thank you. Sulla base di erronei presupposti, le amministrazioni ricorrono a piani di abbattimento, i quali si sono rivelati non solo privi di efficacia, ma addirittura controproducenti, perché i territori diventati liberi vengono ricolonizzati in breve tempo da altri individui e la numerosità delle popolazioni è aumentata grazie a processi di adattamento della specie conseguenti proprio agli abbattimenti. Tant'è che è stato documentato che le province che hanno attuato i piani di abbattimento hanno subito maggiori perdite economiche rispetto alle province che non lo hanno fatto. Chi parla di eradicazione non sa che questa è possibile solo in condizioni specifiche e non presenti nei nostri contesti. Abbiamo a disposizione più interventi non cruenti per creare le condizioni di una civile convivenza con questa specie, così come con altre specie selvatiche. Spesso si sente parlare di sterilizzazione o infertilizzazione, non sapendo che anche questi interventi sono invasivi sull'etologia dell'animale e non sono risolutivi per gli stessi motivi per i quali non lo sono gli abbattimenti, oltre a non risolvere le lagnanze di chi non tollera la loro presenza. L'unico intervento sensato è proprio l'impegno concreto a favore dell'habitat. Dallo studio della nutria, così come di tutte le altre specie selvatiche, appare indiscutibile che i conflitti che si vengono a creare tra umani e animali selvatici sono da ricondurre ad una eccessiva pressione antropica sugli ambienti naturali, con conseguenze che ricadono a volte drammaticamente sull'uomo dopo aver determinato dissesto del mondo naturale. Questa è Albina? Sì, questa è Albina. Anche lei trovata orfana, piccolissima, in un argine, dei ragazzi che stavano passeggiando e l'hanno recuperata. Le abbiamo messe all'esterno, abbiamo costruito questo recinto perché siano più libere e abbiano appunto a disposizione sempre l'acqua corrente per rispettare le loro esigenze. Quanto tempo passano nell'acqua? La maggior parte del loro tempo, perché loro in acqua mangiano, dormono, fanno i bisogni. Emi ci vede poco, essendo albina, i raggi solari creano non pochi problemi. You, who are on the road, must have a code that you can live by, and so become yourself, because the past is just a goodbye. Teach your children well, their father's hell did slowly go by, and feed them on your dreams, the one they picked, the one you know by. Don't you ever ask them why, if they told you you would cry, so just look at them and sigh, and know they love you. Your elders grew high, and so please help them with your youth. They see the truth before they can die. Ringraziamo la dottoressa Marchetti e proprio tenendo ben presenti le sue considerazioni sul dissesto del mondo naturale e sulle conseguenze di tale dissesto, ascolteremo ora dalla voce della dottoressa Barbara Faccini, geologa dell'Università di Ferrara, quali alternative vi sono all'uccisione e anche alla sterilizzazione delle nutrie, in un'ottica di convivenza con il selvatico, in un'ottica win-win, come si dice oggi, cioè in cui tutti vincono, nella fattispecie umani e altri animali. Alternative realizzabili attraverso scelte politiche e investimenti pensati in questa prospettiva, con la proposta di una grande opera di riqualificazione ambientale dei corsi d'acqua come strumento di controllo numerico della nutria, oltre che come mezzo per prevenire i disastri conseguenti ai dissesti idrogeologici e come mezzo per creare un ambiente più favorevole anche all'umano stesso. Sempre più spesso si sente parlare di dissesto idrogeologico, con i risultati dell'esondazione di fiumi che sono sotto gli occhi di tutti i cittadini. È facile imputare all'attività di scavo delle tane degli animali cosiddetti fossori la causa ultima, o meglio quella più superficiale, di molti di questi eventi nel territorio della pianura padana. È invece più difficile rendersi conto di quelle che sono le cause primarie, cioè le vere radici del problema. Senza voler discutere qui se questi animali siano davvero i responsabili in certi casi, è bene far notare che le esondazioni dei fiumi e le rotture dei loro argini sono eventi diffusi in tutta la penisola, anche là dove le specie fossorie sono rare o addirittura assenti. La pianura padana, fino a poche migliaia di anni fa, era un insieme di ecosistemi unici ed interconnessi tra loro. In pratica, un grande bosco solcato da fiumi e dai loro affluenti, liberi di esondare, creando zone umide periodiche o permanenti ed apportando continuamente nuovo sedimento e sostanza organica. Le attività dell'uomo, sempre più invasive nel corso dei secoli, fino al massimo registrato ai giorni nostri, hanno modificato in modo imponente quell'ambiente primitivo, cancellando molti ecosistemi e riducendo drasticamente la funzionalità di quei pochi rimasti. Il grande bosco è stato sostituito da campi coltivati. I fiumi sono stati sottoposti ad interventi di rettificazione degli alvei ed arginature, le zone umide prosciugate e le loro acque drenate artificialmente. È facile immaginare come questo abbia reso il territorio scarsamente resiliente e bisognoso di continua manutenzione. Eppure è questa forzatura che è alla base del dissesto. È questo furto di spazio alla natura e alle altre specie che la abitano a favore di un'unica specie, la nostra, che è la causa prima dei disastri a cui assistiamo e del deterioramento progressivo dell'ambiente e del clima, fondamentali per la nostra stessa sopravvivenza. Come si chiama? Pitagora. Non gliel'ho messo io il nome. Ce l'aveva già, l'abbiamo mantenuto. Tira morsini? Diciamo che tira morsoni. Morsoni. Allora, caro Pitagora, è stato bello? È stato prelevato, una persona non tanto a posto, mal gestito ed era diventato aggressivissimo, per difesa naturalmente. Dopodiché sono intervenute delle guardie zoofile e l'hanno recuperato, mi hanno contattato e è arrivato da me, questo dall'Emilia Romagna. Adesso si è addolcito parecchio, perché con noi si è addolcito parecchio. La castrazione sicuramente ha aiutato, però bisogna dargli del lei. A lui va dato del lei. Lui entriamo con gli stivali. Vieni, no. Oh, Marco, guarda, sta attento. No, sono qua, non esce. No, non esce, che non te ciappa un morso comunque. Ah, buon, te hai stivaiti. Il rimedio efficace a lungo termine per prevenire le alluvioni e al tempo stesso il mezzo per risolvere i conflitti tra noi sapiens e gli altri animali che popolano il territorio è quello di ridare spazio ai fiumi, restituire spazio ai loro alvei, ripristinando meandri e aree allagabili, insomma riportando i fiumi in un assetto che sia il più possibile vicino a quello originario, dalla loro sorgente fino alla foce. È questo l'obiettivo della riqualificazione integrata dei corsi d'acqua, o rinaturalizzazione, di cui si sente sempre più spesso parlare, ma che ancora non si applica in modo diffuso e sistematico, perché richiederebbe un notevole cambiamento socio-economico e anche di mentalità. Nel caso specifico della nutria, che tende ad abitare corsi d'acqua minori e quelli artificiali, come i canali di bonifica, la riqualificazione integrata dei corsi d'acqua potrebbe rivelarsi molto utile sia al fine del contenimento numerico della specie, sia della riduzione dei conflitti legata allo scavo delle tane sulle sponde. Sebbene le tane di una nutria non superino i 3 metri e non possano in alcun modo provocare il cedimento totale di un argine, esse possono tuttavia causare crolli spondali localizzati, che sono considerati un disturbo dal mondo agricolo e dagli enti gestori dei canali. La rinaturalizzazione, se attuata con riduzione della pendenza delle sponde al di sotto di 30 gradi, impedisce alla nutria lo scavo della tana, creando al contempo spazi periodicamente allagabili, tappezzati di canneti e di altre piante che sostituiranno le tane come zona di riparo e stazionamento degli animali. In questo modo la nutria sarebbe esposta in modo più efficace all'azione del freddo e dei predatori, come volpi e donnole, di fatto creando le condizioni per il suo contenimento numerico. La rinaturalizzazione, oltre a prevenire il dissesto idrogeologico, avrebbe dunque come effetto collaterale quella di rappresentare un'alternativa ai piani di abbattimento, che si sono rivelati inefficaci sul lungo periodo di tempo, dovendo infatti essere periodicamente ripetuti con conseguente impiego di risorse economiche per un tempo illimitato. Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You said one love, one life, when it's one need in the night. One love, we get to share it. It leaves you, baby, if you don't care for it. Did I disappoint you or leave a bad taste in your mouth? You act like you never had love and you want me to go without. Well, it's too late tonight to drag the past out into the light. We're one, but we're not the same. We get to carry each other, carry each other. One. Have you come here for forgiveness? Have you come to raise the dead? Have you come here to play Jesus to the lepers in your head? Did I ask too much, more than a lot? You gave me nothing now, it's all I got. We're one, but we're not the same. Well, we hurt each other, and we're doing it again. You say love is a temple, love a higher law. Love is a temple, love the higher law. You ask me to enter, but then you make me crawl. And I can't be holding on to what you've got when all you've got is hurt. One love, one blood, one life. You've got to do what you should. One life with each other, sister, brothers. Battina manca tutta la parte superiore del labbro perché è stata recuperata incidentata, aveva tutto il muso rotto. È stata recuperata da un ragazzo di Dolo, fuori proprio dall'autostrada, sulla rotonda. Pensava fosse morta. Si è fermato per metterla sul ciglio perché non venisse schiacciata e gli si è accorto che aveva una zampetta che la muoveva appena appena. Ha chiesto aiuto in Facebook e poi hanno dato il mio contatto. È stata portata qui, lei era in condizioni abbastanza gravi, pian pianino con le cure e ce l'ha fatta. Questa è una nutria selvatica. Però si fa accarezzare. Certo. Certo, perché, ripeto, basta dare soltanto dei tempi, interagire in un modo leggero e delicato. Loro sono animali che si abituano e amano il contatto. Se non minacciate o stressate, non attaccheranno mai. Sono animali assolutamente miti, tranquilli e intelligenti. Perché, come avete potuto vedere, conoscono il nome, lo riconoscono, riconoscono il proprietario. Ringraziamo la dottoressa Faccini, segnaliamo che i lavori della dottoressa Cristina Marchetti e della dottoressa Barbara Faccini sono rinvenibili in rete e sul sito e sulla pagina Facebook di ENPA Milano. Segnaliamo anche che sul sito dell'associazione Vita da Cani si possono trovare ulteriori notizie sulle nutrie di Lambrate e un articolo di approfondimento del dottor Antonio De Marco, biologo evoluzionista ricercatore del CNR. Ricordo anche che un'altra accusa che viene mossa alle nutrie è che si cibano delle colture, mentre sappiamo che la nutria nel suo ambiente d'origine in Sud America non è una minaccia al sistema agricolo. E dalla letteratura scientifica a riguardo apprendiamo che si potrebbe ridurre drasticamente il danno alle colture lasciando una frangia di vegetazione di circa 5 metri lungo i corsi d'acqua, promuovendo così la crescita di piante igrofile, cibo prediletto dalle nutrie. Inoltre, personalmente, non mi entusiasma per niente il fatto che si auspichi che il controllo del numero delle nutrie avvenga a causa dell'intervento dei predatori a cui sarebbero più esposte non potendo scavare tane in seguito alla riqualificazione dei corsi d'acqua. Personalmente, visto che in questa situazione le abbiamo messe noi, suggerirei di provare a immaginare modi per dar loro una mano. Oltre alla creazione delle frange di vegetazione che citavo prima, che so, per esempio destinando loro delle aree adeguate e o fornendo loro delle tane artificiali, sul modello di quelle svizzere per i castori. In conclusione, tendenzialmente io penso in termini di individuo e non di specie e credo che affrontare la questione in termini appunto di individuo, di sofferenza dell'individuo, anziché solo in termini di specie, modifichi radicalmente la prospettiva, il nostro pensare e il nostro agire. Per la nutria pochi animalisti si muovono e questo per me è stata anche una delusione grande, perché da animalista come io sono, come combatto per un gatto, per un cane, per un cavallo, per una pecora, combatto anche per le nutrie. Mi piacerebbe che tutti la pensassero così, però così non è e questa è la realtà. Belle in acqua che giocano, fanno la lotta, fanno finta di fare la lotta, partono schizzi d'acqua, danno proprio una sensazione di felicità, di gioia. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.